Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie. Benvenuti all'ultima delle lezioni di jazz di questo terzo ciclo. Prima di cominciare quest'ultima lezione che abbiamo dedicato a jazz e politica, vorrei ricordare che per me questi incontri sono carichi di significato, perché in questi 3 anni ho avuto anche modo di conoscere delle persone, in particolare proprio qui in questa sala e poi magari prolungando le chiacchierate fuori. In particolare vorrei ricordare una persona molto cara che si chiama Alessandro Blasetti, omonimo del regista, che è stato uno dei più grandi produttori della musica italiana. Magari chi di voi ama i grandi cantanti e cantautori non lo conosce, ma sappia che è stato dietro i più grandi successi della musica italiana degli ultimi 40 anni. Ho conosciuto Alessandro qui e Alessandro è scomparso poche settimane fa e non ha potuto assistere per la sua malattia a quest'ultimo ciclo, e vorrei idealmente dedicargli questa lezione e questo ciclo. Consentitemi questa cosa personale, perché è qui e grazie a queste lezioni che ho conosciuto una persona così importante poi per la musica in Italia. Jazz e politica. Quando il jazz fa politica, già, che vuol dire? Vuol dire molte cose, perché il rapporto fra la musica e la politica, fra l'arte e la politica, è un argomento vastissimo che non può essere certo esaurito nel poco tempo che abbiamo a disposizione, perché si può in realtà declinare in tanti modi differenti. Ed è quello che proveremo a vedere oggi, facendo una specie di excursus storico sui rapporti tra jazz e politica, che penso sorprenderà più di una persona. In genere siamo abituati a pensare che ci possono essere grosso modo 2 modalità. Una è quella di dare alla musica una specie di carica espressiva che può per analogia ricordare per esempio la protesta politica o qualcosa di anche vicino a un tono da oratoriale o di rabbia, perché no anche. Un altro invece modo di fare politica potrebbe essere quello, tra l'altro, tipico dei jazzisti, che abitualmente consideriamo, cioè la politica come un fatto privato che si manifesta in gesti privati e che non ha un esito visibile o udibile nella pratica musicale. In realtà le cose sono un po' più complicate, non vorrei fare tanta teoria qui, ma penso che nel corso del nostro percorso poi troverete voi stessi le risposte a questo tipo di domande. Naturalmente la musica è sempre stata, come qualsiasi tipo di musica, in certi casi anche il jazz, al servizio della politica. Un caso che risale, io adesso mi limito, aggiungo un'altra cosa, scusate, mi limito a parlare del jazz, quindi non parlerò degli spiritual, non parlerò di come la musica ha rappresentato un elemento di resistenza ovviamente all'oppressione razziale, perché è chiaro che poi nel jazz parlare di musica e politica è particolarmente importante, perché parliamo poi di una musica che nasce dall'adattamento e per certi versi anche resistenza di una cultura oppressa, quella degli afroamericani, nella terra dell'oppressore, cioè negli Stati Uniti bianchi. Quindi eviterò di parlare di tutta la musica ottocentesca, della musica che viene prima del jazz, mi limiterò a parlare del jazz, ma voglio solo fare una piccola incursione nel blues per ricordare come agli inizi degli anni 10, nel 1900, tra il 1911, 12, 13, William Christopher Handy, quello che poi scrisse St. Louis Blues, aveva preso una melodia che aveva sentito per la strada, l'aveva chiamata Mr. Crump e l'aveva fatta diventare praticamente l'inno del candidato sindaco di Memphis, cioè un pezzo di blues che diventa l'inno del candidato sindaco. Quando poi pubblicherà questo pezzo, lo pubblicherà con un titolo che non aveva più niente a che fare con la contingenza politica, che è appunto The Memphis Blues. Memphis Blues, ecco, quando lo andrete a sentire, ricordatevi che praticamente è un pezzo popolare che era diventato un pezzo di propaganda politica per un certo periodo. Ma non c'è dubbio che il primo grande movimento politico che ci riguarda dal punto di vista della storia del jazz è quello legato alla figura di Marcus Garvey. Marcus Garvey era un politico di origini giamaicane che però fu attivo prevalentemente negli Stati Uniti ed è stato il leader di un grande movimento che proclamava il ritorno di tutti i neri, non solo negli Stati Uniti, e questo era l'aspetto tra l'altro più moderno di Garvey, non solo negli Stati Uniti, ma anche per esempio dei Caraibi o delle Antille, il ritorno dei neri in Africa. Cioè lui diceva, negli Stati Uniti ci hanno oppressi, in Giamaica ci hanno oppressi, siamo stati schiavi, il modo migliore per mettere in crisi questa società è svuotarla di tutta la presenza dei neri per ritornare nella nostra terra natia. Il movimento di Garvey aveva una ramificazione negli Stati Uniti enorme, raggiunse nel suo picco intorno alla metà degli anni 20 milioni di aderenti, tant'è che il governo americano cominciò a preoccuparsi seriamente e poi lo incastrarono a un certo punto, tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, con una delle classiche motivazioni con cui spesso sono stati incastrati questi leader, come per esempio questioni fiscali con le quali poi l'hanno messo in galera e poi spedito all'esilio. Il movimento di Garvey fece veramente paura perché aveva un radicamento come quello di un partito politico, cioè con circoli nelle città anche più piccole, aveva trovato radicamento nel movimento operaio. Quanto era importante la musica nel movimento di Garvey? Poco. Poco perché Garvey, e tantomeno il jazz, Garvey pensava che la musica dovesse avere una funzione prevalentemente propagandistica e il jazz sembrava una musica troppo legata negli anni 20 al puro divertimento dell'andare a bere la sera in un locale o frequentare prostitute o comunque, come dire, condurre uno stile di vita non particolarmente pulito o consono agli ideali di Garvey, per cui il jazz fu sostanzialmente tenuto ai margini. Tuttavia il movimento di Garvey attrasse l'interesse di molti musicisti e in particolare anche di musicisti di jazz e produsse anche delle composizioni che ebbero un certo seguito, un certo successo negli anni 20. In particolare c'è una canzone che si chiama Il blues delle Indie occidentali, appunto per andare verso le Antille, che fu inciso dall'orchestra di Armand Piron, un'orchestra di New Orleans, e la voce di Esther Bijoux, 1923. Il brano fu composto da un tale Edgar Dowell, che era un compositore di New Orleans, e il testo è un testo un po', come dire, un po' comico, anche un po' da commedia, adesso lo ascolteremo, di questa donna che dice: basta, mi sono stufata, prendo le mie valigie e me ne vado nelle Indie occidentali. Me ne vado, lo vedete negli ultimi versi, I got the West Indies blues, cioè ho il blues delle Indie occidentali, voglio tornarmene a casa. È chiaro che l'allusione è alla terra di provenienza di Garvey. Poi vedremo nella seconda parte del testo, man mano che sentiamo l'esecuzione, c'è proprio un esplicito riferimento a Marcus Garvey. Thank you. stato Marco Sgarri. Lei molla il lavoro del cavolo, cioè fare, stare nell'ascensore, fare il... lavorare negli ascensori. Ecco, vedete, cioè, tra l'altro la canzone è cantata nel dialetto giamaicano, cioè questo invece I'm going on è detto I'm going home, è proprio il dialetto giamaicano. Non è l'unica canzone dell'epoca, ce ne sono altre che evocano per esempio i viaggi, proprio il piroscafo, il Blue Star che portava verso la Giamaica. Questa canzone tra l'altro fu anche... incisa proprio tra il 1922 e il 1923, che sono gli anni in cui Garvey tra l'altro fu arrestato una prima volta e messo in prigione, anche da Fats Waller, che sicuramente era, come sappiamo, uno dei più grandi jazzisti che stavano emergendo in quegli anni, ed era un simpatizzante del movimento di Garvey. Un altro, per esempio, era il trombonista Tricky Sam Nanton, che poi suonerà nell'orchestra di Duke Ellington. Ma l'intellettuale più vicino, dal punto di vista del jazz, al movimento di Garvey fu Andy Razaf. Vi sfido a leggere tutto di un fiato il suo vero nome. Andy Razaf era il nipote della regina del Madagascar, quindi era africano d'origine, è un nobile addirittura, ed è stato uno dei più importanti parolieri della musica popolare americana. In particolare le parole di tante canzoni di Fats Waller, compresa Honeysuckle Rose e In Misbehaving, e tante canzoni importanti di Waller, furono scritte da Andy Razaf. Razaf e Waller in particolare scrissero una canzone per un musical con una forte componente, diciamo, di consapevolezza razziale, una canzone che abbiamo già ascoltato nella lezione di su Louis Armstrong, non mi ricordo più quante lezioni di jazz fa, però è una canzone molto importante che si chiama Black and Blue e che divenne un successo grazie all'interpretazione che ne diede Louis Armstrong nel 1929. Questa canzone era cantata anche a Broadway perché faceva parte di un musical che andò in scena a Broadway. Il testo scritto da Razaf è un testo di consapevolezza razziale, non è che contenga degli elementi di protesta espliciti, però viene da una persona che era vicina al movimento di Garvey, era politicamente estremamente consapevole, frequentava gente come Waller, anch'essa vicino al movimento di Garvey, e aveva scritto questo testo in cui sostanzialmente, se lo vedete, si dice che ma voi mi giudicate per come sono fuori nel colore della pelle, ma io dentro sono diversamente. Che ci posso fare se io sono black and blue, cioè black nel senso del colore della pelle, blu nel senso dell'umore, dello spirito, sono giù, sono ho i blues. Terzo, se guardate la parte B, I'm white inside, sono bianco dentro, ma questo non mi aiuta perché non posso nascondere come è il mio volto, dice lui. E quindi in una società razzista questo è un problema. Come finirà non ho neanche un amico, dice il penultimo verso, il mio unico peccato è la mia pelle, tra l'altro con una trovata poetica notevole, my only sin is in my skin, dice. Questa è la grande versione che ne dà Louis Armstrong. Thank you. the bed. Springtime has led. Feel like old Ned. Wish I was dead. All my life through, I've been so black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do then to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. Cause I can't hide what is in my bag and what. How will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Bellissima, sì. Due considerazioni. La prima è che, ma perché non lo dicono più esplicitamente? No? È una scelta politica quella di non essere così espliciti? No, è una scelta di sopravvivenza. Dobbiamo contestualizzare ascolti del genere. Siamo nel 1929, grazie a una sentenza della Corte Suprema del 1894, la Plessy versus Ferguson, per legge viene sancito che i bianchi e i neri sono uguali, d'accordo, ma devono stare separati. Quindi nel 1929 Louis Armstrong non può entrare in un bar o in un ristorante per bianchi, non può salire su un pullman per bianchi. Se gli scappa la pipì non può andare in un bagno pubblico qualsiasi, deve trovarne uno per i neri. Quando va in tour non c'ha l'hotel a disposizione, deve trovare uno di quei pochi hotel che accettano neri, perché in un hotel per bianchi non ci può andare. Se si sente male all'ospedale, è capace che non lo prendono, come vedremo ancora negli anni 60, perché è nero, stai morendo, muori. I neri non sono ammessi in ospedale. Cioè, siamo in una situazione in cui, questo succede nel nord, i neri sono discriminati, nel sud addirittura li ammazzano. Ci sono i linciaggi, intere famiglie si fanno la fotografia vicino a un nero bruciato, vivo e appeso, impiccato, e tutti insieme si fanno una foto come se fossero al picnic. Quindi già un testo del genere è, come dire, un segno di audacia. Ora, nel corso degli anni 30, noi assistiamo ad una crescita da un punto di vista politico e anche da un punto di vista musicale, di una consapevolezza razziale e politica di musicisti, organizzatori, intellettuali, giornalisti, che sono legati soprattutto alla sinistra statunitense, prima che la sinistra statunitense venisse naturalmente azzerata dalla caccia alle streghe nel secondo dopoguerra. E invece questa sinistra statunitense, che aveva tra l'altro come dire, molte ramificazioni, c'erano i più marxisti, i più trotskisti, i leninisti, era una ramificazione molto, molto ampia e molto diversificata, però si ritrovava diciamo in sintonia con quel grande progetto che era quello del fronte popolare, che partito dall'Europa era arrivato anche negli Stati Uniti. Le persone che vedete nella diapositiva sono alcuni degli intellettuali bianchi, alcuni di loro, per un paradosso della sinistra che credo ci sia familiare anche in Italia, molto ricchi, che come John Emmond, che veniva dai Vanderbilt, cioè parliamo di stramiliardari, molti di loro venivano da buoni studi, per esempio l'università di Yale era un epicentro di questi intellettuali. Sono tutti intellettuali in gran parte molto ricchi, di sinistra se non estrema sinistra, che hanno in comune l'idea di dover combattere in modo esplicito, come un nero non poteva fare, loro da bianchi invece potevano farlo, la discriminazione razziale. E questo è un primo aspetto. Intanto vediamo i nomi. John Hammond è stato un produttore, è stato colui che ha scoperto Billie Holiday, che ha scoperto Count Basie, che ha scoperto Charlie Christian, che ha lanciato la carriera di Benny Goodman, di Teddy Wilson e di tanti altri grandi artisti. Rudy Blesch è stato un grande studioso, come Frederick Ramsey, che vedete sotto, un grande studioso di ragtime e di jazz delle origini. Otis Ferguson è stato un critico musicale. Cosa hanno in comune tutte queste persone? Non solo la militanza politica, ma un'idea, storica anche ben precisa, che è la seguente. Essendo, diciamo, tutti più o meno di estrazione marxista, tutti questi intellettuali si chiedono: ma qual è la vera musica del popolo americano? Qual è il cuore, l'essenza, lo spirito della cultura popolare americana? E in un'ottica marxista dicono: è quella di un popolo oppresso, cioè i neri. Quindi il cuore della musica popolare americana è la musica nera, è la musica degli ex schiavi. Questo vuol dire che se io voglio studiare le origini della cultura popolare americana, devo andare a studiare le origini della musica nera americana, perché così spiego la musica popolare americana in toto. Allora sapete che succede? Che personaggi come Rudy Blesch e Frederick Ramsey diventano i primi importanti storici del jazz. La motivazione che li anima non è solo quella di scoprire la storia del jazz, di capire dove è nata questa musica, come è nata, come si è sviluppata, quali sono stati i suoi protagonisti, ma è anzitutto quella di dare, come dire, una sostanza storica ad un progetto ideologico, cioè capire qual è il cuore della musica popolare americana. È lo stesso ideale che muove un giovanissimo etnomusicologo, Alan Lomax, che di jazz non sapeva assolutamente niente, che però poco più che ventenne si trova a lavorare alla Library of Congress e gli viene fatta la proposta di intervistare Jelly Roll Morton, e lui praticamente dice: chi è? Perché non lo conosceva. Gli dicono che Jelly Roll Morton è praticamente l'inventore del jazz, uno dei padri del jazz, e Lomax subito lo intervista, perché vuol dire andare a scavare nelle origini della musica popolare americana. Questo progetto porta poi alla pubblicazione anche di libri. Per esempio, due scrittori marxisti, apertamente marxisti, come Frederick Ramsey e Charles Edward Smith, curano una raccolta di saggi che si chiama Jazzman, che è la prima storia del jazz pubblicata negli Stati Uniti. Questo per farvi vedere come l'ideologia marxista e la ricerca storica fossero intrinsecamente legate. Anzi, vi dirò di più, che la più popolare storia del jazz pubblicata negli Stati Uniti poco dopo fu scritta da un altro studioso ancora più radicale dal punto di vista marxistico, che si chiama Sidney Finkelstein, che pubblicò un libro, una storia del jazz, che ha il cui titolo è tutto un programma. Siamo proprio sull'orlo della caccia alle streghe, 1948. Jazz e People's Music. Il jazz, la musica del popolo. Popolo va inteso quasi nel senso leninista, diciamo così, della parola. Questo progetto culturale non si limitò alla ricerca storica, perché poi Smith, Ramsey, Rudy Blesch non è che stavano dietro una scrivania a scrivere i libri, si mossero, andarono a New Orleans, scoprirono i vecchi jazzisti, li intervistarono, fecero rivivere un intero mondo che era stato dimenticato e non era considerato importante. Quindi Lomax intervista Jelly Roll Morton e così via. Ma non solo c'è quindi un'attività di ricerca sul campo da parte di questi intellettuali, ma c'è anche qualcosa di più: produrre musica, rendere il pubblico consapevole che la storia del jazz è la storia che li riguarda, che riguarda tutti, perché è la storia della musica del popolo. Tant'è vero che nel 1939, 38 scusate, poi 39, viene organizzato, guardate prima a destra, viene organizzato un festival che si chiama From Spiritual to Swing, che quell'anno nel 38 fu dedicato a Bessie Smith, che era appena morta. Tra l'altro all'epoca circolava la notizia, poi rivelatasi errata, che Bessie Smith era morta dissanguata perché dopo un incidente automobilistico, perché un ospedale non l'aveva accettata perché nera. La notizia si è poi rivelata non esatta, ma all'epoca la si considerava corretta, e quindi c'era anche questo elemento di indignazione. A organizzare il festival From Spiritual to Swing, che come vedete dal titolo ambiva a presentare al pubblico una storia del jazz durante una serata, e c'erano dentro Count Basie, Lester Young, cantanti di blues, rhythm and blues, gruppi gospel, quindi l'intero spettro della musica nera, fu una rivista di estrema sinistra, The New Masses, Le Nuove Masse. Quella è una copertina del 1938, notate che c'è un preoccupante titolo in alto a sinistra, If the Nazis Attack, si parla dei fascisti del Canada, insomma ci sono, questo è il numero del 21 giugno del 38, From Spiritual to Swing fu organizzato nel dicembre del 38. Quindi, come vedete, il festival di jazz fu organizzato da una rivista di sinistra, diciamo una specie di antesignano dei festival dell'Unità, così, tanto per farci una risata sopra, una amara risata. Vi voglio far ascoltare, esiste una registrazione delle due, esiste un bellissimo cofanetto che raccoglie, poi con tutti i Deplian dell'epoca, molto bello, che raccoglie i due concerti. Qui vi faccio sentire un brano brevissimo, dura un minuto e mezzo, che si chiama That's All, in cui furono messi insieme, tra l'altro dietro c'era John Hammond a organizzare la cosa, furono messi insieme due artisti considerati appunto rappresentativi del mondo popolare, del popolo, cioè Sister Rosetta Tharpe, che era una cantante di blues che si era dedicata poi alla musica religiosa, al gospel, quindi rappresentava l'elemento religioso e folclorico della musica nera, e il pianista di Boogie Woogie, Albert Ammons. Vale la pena di ricordare, scusate, visto che parliamo di jazz e politica, che il Boogie Woogie sembra la cosa più lontana dalla politica che si possa immaginare, era uno stile pianistico da ballo che veniva dallo stile pianistico dei taglialegna del Texas. Ma negli anni 20, quando nacque il Boogie Woogie, lo ballavano solo i neri, furono John Hammond e compagni a creare letteralmente dal nulla un revival del Boogie Woogie negli anni 30, con tutti poi i grandi successi, no? Glenn Miller, eccetera, eccetera, che conosciamo. Perché? Perché il Boogie Woogie era appunto la musica dei proletari neri, e quindi dei proletari, di tutti i proletari statunitensi. That's All, tanto per farvi sentire un frammento del concerto Spiritual to Swing, 1938. Lei si accorda. The natural fact. What is it? Met a man who was a Yeah. Notate, siamo nel tempio della musica di New York, alla Carnegie Hall, e uno si direbbe, ma che c'è di politico in questa musica che abbiamo ascoltato? Niente, ma è evidentemente il progetto ideologico e culturale che dà una carica politica significativa a questa esecuzione. La seconda domanda che ci dobbiamo porre, e questo diciamo è un altro modo di considerare il rapporto fra musica e politica, ok? L'altra domanda è: quanto sono consapevoli questi musicisti di essere parte di questo progetto? Lo sappiamo e non lo sappiamo, possiamo fare delle ipotesi. Alcuni di quelli che parteciparono alla serie Spiritual to Swing erano perfettamente consapevoli. Per esempio Count Basie o Benny Goodman, che frequentavano regolarmente John Hammond, ne conoscevano le idee politiche e per certi versi le condividevano anche. Non sappiamo se Albert Ammons o Sister Rosetta Tharpe avessero altrettanta consapevolezza. Secondo me, come dire, non ignoravano il contesto, perché quando tu vai a suonare in un posto e sai che questo concerto è stato organizzato da un giornale di estrema sinistra, che quello che ti dà lavoro si chiama John Hammond, che era conosciutissimo a New York per la sua storia, per quello che faceva, anche per la sua lotta per i diritti dei neri, beh, insomma, puoi anche voltarti dall'altra parte, prendere i soldi e finisce lì, ma è più facile che quantomeno sei consapevole del contesto in cui stai agendo. Gli anni 30 furono, in generale, che ci crediate o no, molto più politicizzati di quanto possiamo immaginare, proprio per la forza del fronte nazionale. La forza internazionale del fronte popolare. Di solito siamo abituati a pensare che è negli anni 60 che il rapporto fra jazz e politica si fa particolarmente intenso e incandescente. No, gli anni 30 sono altrettanto importanti. In particolare a New York, ma non solo, che era una città ovviamente cosmopolita, ricca, varia, e quindi si poteva permettere situazioni molto più audaci, c'era un locale che si chiamava il Café Society, che aveva due sedi, una al Village e un'altra ad Harlem, quindi c'era il Café Society Downtown e il Café Society Uptown, che era il vero e proprio covo di comunisti, diciamo così, mettiamola così. Cioè era il luogo dove si ritrovavano gli intellettuali bianchi e neri, i musicisti bianchi e neri, era un locale che non faceva discriminazione razziale, presentava una cosa che non si vedeva in altri locali, cioè gruppi di bianchi e neri che suonano insieme sullo stesso palco. Vi ricordo che fra le tante cose di quegli anni questa cosa non è ammessa, musicisti bianchi e neri non suonano insieme. L'unico gruppo che lo faceva regolarmente era l'orchestra di Benny Goodman, ma perché dietro c'era John Hammond, che imponeva volutamente nelle sale da ballo anche del sud, alle radio, al cinema e in generale nei locali, imponeva che suonassero con l'orchestra anche Lionel Hampton, Teddy Wilson, che erano neri. Se tu non accettavi questa cosa, non avevi l'orchestra di Goodman. Era una specie di ricatto, diciamo così, economico, e Hammond così spinse molto per questo tipo di integrazione. Al Café Society non c'erano questi problemi. Il Café Society era frequentato da un sacco di gente, tra cui il poeta Abel Meeropol, che è quello che scrisse Strange Fruit. Ne abbiamo parlato in una scorsa lezione, mi pare l'anno scorso, dedicata a Billie Holiday. Vale la pena comunque di tornare, perché so che ci sono qui degli appassionati che sentirebbero 20 volte di seguito la stessa lezione, altri invece che non sono mai venuti, e quindi riproponiamo una pagina fondamentale della storia del Café Society, dove andava a cantare regolarmente Billie Holiday, che ricordiamo fu scoperta da John Hammond, e nonostante, come dire, la vita di Billie Holiday più legata ad altri tipi di problemi, la Holiday era ben consapevole dei problemi dei neri, ma sapete, non era necessario avere coscienza politica, perché per un nero statunitense era questione che tutte le mattine che tu ti svegliavi dovevi andare a lottare contro la società nella quale vivevi, che faceva di tutto per umiliarti, come minimo umiliarti, all'estremo ti ammazzava. Questa era un'esperienza quotidiana per il nero, quindi non c'è bisogno di essere particolarmente consapevoli da un punto di vista politico. Fatto sta che Abel Meeropol scrisse un poema accompagnato da una musica estremamente elementare, perché serviva più che altro a far recitare questo poema che si chiamava Strange Fruit, cioè lo strange fruit, lo strano frutto, sono i corpi dei linciati, dei neri linciati, soprattutto nel sud. Vi ricordo che ogni anno, ancora negli anni 30 e 40, venivano ammazzate decine di individui per i motivi più futili, senza che ovviamente chi commetteva l'omicidio venisse perseguito legalmente. Quindi questi strani frutti, black bodies che swinging in the southern breeze, i corpi neri che oscillano nella brezza del sud, sono ovviamente i corpi dei linciati. Billie Holiday canta questa musica, questo poema, recita quasi questo poema con una asciuttezza drammaturgica ammirevole, fatta di piccoli gesti di sopracciglia, spalle, movimenti del busto, come possiamo apprezzare in questo filmato un po' più tardo degli anni 50, ma immaginate di essere al Café Society negli anni, fino agli anni 30, primi anni 40, con Billie Holiday che canta questo pezzo che poi ebbe un grandissimo successo. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry. È un raccolto strano e amaro, dice l'ultimo verso del poema di Merapol. Al Café Society, tra l'altro, suonava un grande pianista, che era il pianista di Benny Goodman, che non ha mai, come dire, suonato dei pezzi, come ha fatto Billie Holiday, con una componente politica, ideologica o di protesta, mai. Però era noto nell'ambiente come The Jazz Marxist, con un tocco di ironia, il marxista jazz. Era uno che... un personaggio di ottime letture, che si è impegnato neanche dietro le quinte, ma apertamente nella sua vita privata e pubblica a favore di grandi intellettuali neri che hanno lavorato contro la discriminazione razziale. E molti di questi intellettuali erano apertamente schierati a sinistra, a volte anche in modo molto radicale. Per esempio, ecco, quello di Teddy Wilson mi sembra un esempio meraviglioso di impegno non sbandierato, non ipocrita, molto profondo, che si mette in gioco anche a livello evidentemente professionale, perché quello voleva dire comunque esporsi, e che non ha un riflesso diretto su quello che suoni, ma si manifesta semplicemente, come dire, non in nel contenuto musicale o nei titoli dei pezzi, ma nell'impegno quotidiano civile di cittadino, che professionalmente è anche un musicista. Se lui avesse fatto l'idraulico sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Non è che quando vai a aggiustare il rubinetto ci metti, che so, il falce e martello sopra per far capire che sei di sinistra. È la stessa cosa che fa Teddy Wilson. Si impegna come cittadino e si impegna in particolare nei confronti di due persone. Una che nella foto è piccola, ma dovrebbe essere invece lui quello grande, diciamo così, Paul Robeson, uno dei più grandi cantanti neri, ma della musica americana, che cantava sia repertorio lirico sia repertorio popolare, che è stato un grandissimo attivista dei diritti politici dei neri, fortemente perseguitato dal governo americano, per il quale Wilson ha organizzato delle campagne, delle raccolte fondi, delle feste. Per esempio, Robeson fu il primo attore nero a recitare Otello a Broadway ci fu poi una specie di festa per il suo compleanno, una festa pubblica nella quale si esibirono Teddy Wilson, Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Ellington, molti altri musicisti, e lui recitò tra l'altro una scena appunto da questo mitico Otello. Pensate, per farvi capire, quando Robeson recitò l'Otello a Broadway in biglietteria, davanti a tutti c'era Dizzy Gillespie pronto a comprare il biglietto, perché rappresentava una conquista eccezionale. E Wilson è stato un aperto sostenitore di Robeson. Ancora di più, Wilson fu un attivista nei confronti di Benjamin J. Davis, che è stato prima un militare e poi il primo importante consigliere comunale del comune di New York, nero, il primo grande consigliere nero del comune di New York, un radicale che poi ha avuto un sacco di problemi, lo hanno perseguitato, messo in galera ingiustamente, si è fatto 3 anni di carcere, insomma è stato pesantemente perseguitato, e Wilson faceva parte di un comitato di artisti che permise poi l'elezione, spinse e vinse per l'elezione di Davis nel Consiglio Comunale di New York. Questo tanto per darvi un'idea di alcune delle attività di Teddy Wilson, che si conoscono solamente leggendo le sue biografie o spulciando e ricercando in giro, ma se ascoltate solo la sua musica non trovate niente di tutto questo. Ovviamente Wilson era di casa al Café Society. Addirittura il gruppo di base del Café Society era quello del trombettista Frankie Newton, un musicista sfortunato, è morto piuttosto giovane negli anni 50, qui lo vediamo sopra in una foto con Sidney Bechet, e sotto in un suo gruppo a Boston. Come vedete, un gruppo integrato. Foto di questo genere negli anni 50 non si vedono, nei primi anni 50, bianchi e neri che suonano insieme sullo stesso palco. Newton era un altro marxista che frequentava, era il gruppo base del Café Society, quello che suonava tutte le sere lì. E per darvi l'idea di quanto sia stato importante, non solo come musicista, che ha avuto una carriera breve ma significativa, ma ideologicamente, sappiate che un giovane storico marxista inglese, Eric Hobsbawm, nel 1961 pubblicò una importante storia del jazz, The Jazz Scene, una storia sociale del jazz, come fu poi tradotta in italiano. Ma siccome gli storici accademici seri non potevano occuparsi di jazz negli anni 50 e 60, perché il jazz era una musica, come dire, dal punto di vista dell'accademia, non degli storici ovviamente, dal punto di vista dell'accademia era una musica commerciale, secondaria, Hobsbawm pubblicò il suo libro nel 61 con, guardate, il nome di Francis Newton. Cioè praticamente era un omaggio a Frank Newton, il trombettista marxista del Café Society. Questa era la firma che Hobsbawm usava nei suoi articoli e poi nel suo libro. Solo negli anni 70 il libro fu poi pubblicato con l'autorevole nome vero del suo autore. In italiano lo pubblicò in una bellissima edizione Editori Riuniti negli anni 80 con il titolo Storia sociale del jazz. Non abbiamo mica finito con gli anni 30, perché il mondo marxista non aveva solo Teddy Wilson, ma anche persone che si sono apertamente schierate in una dimensione marxista. In particolare due artisti, il più grande poeta nero del Novecento, probabilmente, Langston Hughes, di aperte simpatie di sinistra, e il pianista James P. Johnson, pianista e compositore James P. Johnson. I due, Johnson tra l'altro è considerato il musicista apolitico per eccellenza, cioè era quello che suonava nei locali, nei club di Harlem degli anni 20, l'inventore dello stride piano, uno dei maggiori compositori, tra l'altro è il compositore del pezzo Charleston, che ebbe un successo enorme da Broadway poi in tutto il mondo. E invece i due misero insieme un'opera, un atto unico, che si chiamava The Organizer, che è la storia di un gruppo di lavoratori, in particolare di operai e di contadini, che comprendono in questo breve atto unico, in un momento di crisi, che l'unico modo per far valere i loro diritti è affidarsi a un organizer, cioè nel dialetto afroamericano, a un sindacalista. È un'opera apertamente pro-sindacato, in anni peraltro in cui i sindacati conducevano battaglie durissime, come sapete. L'opera andò in scena una sera sola alla Carnegie Hall e da allora è stata dimenticata e considerata perduta. Solamente una decina, una quindicina di anni fa, un musicologo statunitense ha per caso trovato la versione per canto e pianoforte completa dell'opera e l'opera è tornata a vivere in diverse repliche in varie città americane. Si trattava di un'opera apertamente politica, apertamente pro-sindacato, di cui c'è rimasta solamente, prima che James Dapogny la riscoprisse agli inizi del 2000, c'era rimasta solamente un brano, l'aria d'apertura. Era un'opera jazz, attenzione, era un'opera lirica ma con un linguaggio jazz, come aveva già fatto in passato James P. Johnson, che aveva scritto opere sinfoniche, un po' come Gershwin, che era amico di Johnson, i due si scambiavano continuamente idee, aveva scritto già delle opere di carattere misto classico-sinfonico. L'aria d'apertura che Johnson poi incise nel 1939, quindi prima che l'opera andasse in scena, come una canzone jazz, con un accompagnamento jazz, si chiamava Hungry Blues, e cioè l'aria iniziale in cui c'è una donna, qui la voce di Anne Robinson, che dice che è stanca di avere questi blues della fame. Notate i versi di Langston Hughes, per esempio più avanti dice c'è un'altra cosa da scegliere, dice il terzo verso della seconda parte, un nuovo mondo, a brand new world, clean and fine, buono e bello, dove nessuno ha fame, e there is no color line. Notate che line rima con fine, dove non c'è nessuna linea del colore. Il brano, tra l'altro, è musicalmente bellissimo e ci fa capire quale grandioso sforzo creativo aveva prodotto l'incontro fra due menti geniali come quella di Langston Hughes e James P. Johnson. Johnson è al piano. Have you heard the news of a brand new world? questo è il trombettista Red Allen. Fior di canzone, se c'è qualche discrepanza tra quello che avete visto e sentito, perché esistono due versioni della canzone, c'è una cosa importante da dire, che l'affermazione politica più forte in questo genere di repertorio, come lo era per esempio in Black and Blue di Louis Armstrong, che non a caso ha anche sollecitato il vostro applauso, è che questa musica è straordinaria. Cioè la forza culturale dei neri e quindi anche politica sta nel fatto che producono una musica di livello eccezionale. Non è un caso che il testo di Langston Hughes viene musicato da Johnson con la parte musicalmente più audace, più dissonante, proprio sulle parole "a brand new world, clean and fine, where nobody's hungry", cioè dove c'è il messaggio di speranza, perché a lei dicono "ma non c'è scelta, o stai lì che ciondoli oppure muori o muori di fame", e lui dice "no, non hai sentito la novità, c'è un altro mondo possibile". Ecco, laddove uno si aspetterebbe la fanfara trionfale, invece Johnson decide di musicare quelle parole di speranza con la parte musicalmente più audace. Come dire, la forza e la novità di quello che facciamo sta nella nostra creatività. E questo è un messaggio politicamente molto sottile e tutt'altro che banale. Uno dei musicisti più impegnati in assoluto, anche in maniera esplicita, con articoli, dichiarazioni, è Duke Ellington, che magari abitualmente pensiamo come un musicista troppo preso dalla sua musica per pensare a queste cose. In realtà Ellington ha lavorato tutta la vita a far passare l'idea che la musica nera è una musica che può far progredire la coscienza, la consapevolezza non solo dei neri ma di tutti. E ovviamente perché questo accada bisogna anzitutto superare la linea, la barriera del colore, su cui è fondato il razzismo americano, che è un razzismo del colore. E Ellington lo racconta e lo dice più volte e poi a un certo punto decide di farci un lavoro sopra. Questo lavoro è un musical che si chiama Jump for Joy, che andò in scena a Los Angeles nel 1941 e che suscitò un dibattito molto acceso e una grande controversia. C'erano delle canzoni in cui si parlava apertamente di ostilità verso il razzismo con un tono molto aspro, si parlava apertamente di ostilità contro la struttura della società americana, e questo messaggio fu talmente esplicito che per esempio i membri del cast cominciarono a ricevere minacce di morte. E il musical non riuscì mai veramente a decollare. Come ricordò Duke Ellington, anni dopo era troppo avanti, raccontava delle cose troppo forti per un paese che peraltro stava per entrare in guerra. Quindi Jump for Joy non ebbe il successo che meritava. Peraltro Ellington non fu neanche in grado di incidere le canzoni con il contenuto politico più esplicito, più aggressivo anche. Per cui abbiamo i dischi di alcune delle canzoni del musical con un contenuto, in questo caso, non edulcorato, ma semplicemente gli fu concesso di registrare un altro tipo di canzoni. In particolare vi faccio sentire la canzone che si chiama proprio Jump for Joy, che dà il titolo al musical, il cui testo dice "ben lontano dalle terre del cotone", che è fuori luogo, e pensiamo, diciamo, ad un mondo diverso, ad un universo diciamo meno finto e invece più autentico, dove le persone si possono incontrare, che è una specie di paradiso, che però è un paradiso con aspirazioni tutt'altro che astratte, ma molto molto concrete. Il testo non è particolarmente audace, c'ha delle allusioni appunto qui e lì, ma c'è una cosa che è più audace di qualsiasi altra, la musica. Il pezzo è dissonante, è audace, e non ha un ritmo da ballo, ma ha una carica musicale, una costruzione musicale molto complessa. Lo sentirete, tutt'altro che, come posso dire, consonante e eufonico. Lo canta Ivy Anderson, questo Jumps for Joy. Jump for joy, don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? Oh, green pastures was just a Technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Naturalmente da questo dovete manca tutto lo spettacolo, cioè le luci, i ballerini, le danze, le scenografie che facevano parte di Jump for Joy e di questa superare, diciamo, l'idea, un'idea così banale della linea del colore. Non c'è dubbio però che se gli anni 30 e i primi anni 40 sono stati fondamentali per la consapevolezza politica di musicisti di quella generazione, al punto da ricevere le minacce di morte come successe a Ellington, la seconda metà degli anni 40 fu, come sapete, un disastro, perché la persecuzione, la caccia alle streghe praticamente azzerarono tutto quell'universo culturale. In genere, quando si parla di caccia alle streghe, si parla tanto ovviamente degli aspetti politici generali e si parla anche, per esempio, dei registi, di sceneggiatori di Hollywood che furono perseguitati, e di meno si parla del mondo musicale, che invece subì le sue pesanti conseguenze. Però non c'è dubbio che una specie di rinascita di un impegno più diretto dei musicisti a livello politico avviene dopo il 1954. Perché? Perché nel 1954 la Corte Suprema americana pone una parola finale, definitiva, alla discriminazione dentro le scuole. Cioè le scuole erano divise, scuole per bianchi, scuole per neri. La sentenza del 54 della Corte Suprema dice basta, discriminazione nelle scuole non è più possibile, è incostituzionale, non si può più fare, tutte le scuole dovranno adeguarsi ad accogliere studenti neri insieme ai bianchi, sullo stesso banco, negli stessi edifici. Questa cosa ovviamente mette in moto tutta una serie di iniziative che poi portano al boicottaggio dei pullman di Rosa Parks, all'emergere della figura di Martin Luther King. Insomma, nella prima metà degli anni 50 il movimento per i diritti civili prende corpo, comincia a proporsi in prima persona e alcuni musicisti si sentono direttamente coinvolti in questo tipo di movimento. Forse quello che più di tutti in quella fase si è sentito coinvolto è stato Charles Mingus, che conosceva molto bene sulla sua pelle, siamo sempre lì, non è questione di aver letto come dire, Marx o Lenin, sentiva sulla propria pelle la discriminazione razziale, lui stesso si definiva peggio di un bastardo perché il colore della sua pelle non era ben definibile, per cui nella società americana basata su un sistema di colore lui non stava in nessuna casella e quindi era ancora peggio, era più discriminato, addirittura un fuoricasta, neanche una cosa del genere. Mingus cominciò a scrivere dei pezzi che avevano una forte componente di protesta politica. Questa protesta politica si poteva manifestare in vari modi. Un brano che si trova nell'album The Clown, e la copertina è già tutto un programma, perché The Clown è il titolo non solo del brano, ma di un pezzo in cui c'è Mingus, no, c'è un'altra persona che recita un poema, nella quale si dice che nella società americana l'artista è semplicemente un buffone, un clown che fa divertire la gente, che poi anche se per qualche motivo si spara, come succede alla fine del poema e del brano musicale, è semplicemente uno che deve far ridere. L'artista nero, il jazzista ancora di più. Dentro questo disco dove c'è il brano The Clown c'è un altro brano che si chiama Asian Fight Song, che non ascoltiamo perché non abbiamo il tempo, ma che vi invito ad ascoltare. Perché il canto di lotta haitiano? Perché nel 1804 Saint-Domingue, la colonia francese di Saint-Domingue, viene sconvolta da una vera e propria rivoluzione di schiavi che porta nel 1804 alla proclamazione della prima repubblica nera di ex schiavi. In realtà era la terza repubblica nel mondo. La prima 1776 gli Stati Uniti, la seconda la Francia 1789, la terza la vecchia Saint-Domingue, ora ribattezzata Haiti, nome indio dell'isola, 1804. Quindi la rivoluzione haitiana, che in realtà oggi lo sappiamo fu un fenomeno molto meno romantico, molto più complesso da un punto di vista politico, però agli occhi di Mingus, e non solo di Mingus, era, come dire, il simbolo che i neri si possono ribellare e conquistare il potere politico. E questa consapevolezza Mingus prova a tradurla in musica, lui lo dice nelle note di copertina, la parola verbale evidentemente è sempre fondamentale, nelle note di copertina dice che il suo assolo di contrabbasso, poi se avrete la voglia di andarlo a sentire ve ne renderete conto, è pensato come un'orazione politica, un discorso. Tant'è vero che lui alla fine di questa spiegazione dice: io quando suono questo assolo dico, io ora gliel'ho detto, spero che vi abbiano capito. Quindi è un modo, come dire, di avvicinare la musica e l'assolo jazz ad una verbalità che è carica di significati politici, di protesta. Non è l'unico brano che in quegli anni Mingus scrive. Tutti noi conosciamo Fable of Phobos, su cui però torneremo dopo, e in particolare un altro brano straordinario del 64 che si intitola Meditations on Integration, appunto la meditazione sull'integrazione, che è un brano poi in realtà molto intimo perché è un brano lacerato fra tensioni molto accese e momenti invece di grande riflessività. Intanto c'è un evento storico per noi importantissimo, che tra l'altro è legato proprio a quel secondo brano, Fables of Phobos. La sentenza della Corte Suprema fu accolta dagli stati lentamente, non tutti aderirono immediatamente, e quello che fece più resistenza fu un personaggio di proporzioni spregevoli, enormi, cioè Orval Phobos, che era il governatore dell'Arkansas, che nel 1957 si oppose al governo americano alla sentenza della Corte Suprema, perché, come lui fa vedere in questo cartello, lui è contro l'integrazione razziale in tutte le scuole del distretto, in particolare di Little Rock in Arkansas. Il governatore si mette di traverso, non vuole far entrare i neri nelle scuole di Little Rock, in particolare all'università di Little Rock. La cosa crea un caso nazionale. Come andò a finire? Andò a finire che a un certo punto, vedete qui delle donne, delle due persone bianche che urlano contro questa studentessa nera che prova a entrare dentro la scuola, umiliata da questa violenza. Alla fine, sotto varie pressioni che tra poco vedremo, il presidente Eisenhower è costretto a mandare l'esercito, sfiorando la guerra civile, perché l'esercito americano si trova a fronteggiare la polizia, le forze di sicurezza dell'Arkansas. Pensate un po'. E l'esercito viene chiamato per proteggere gli studenti neri che per legge possono entrare nelle scuole dei bianchi. Sapete chi è il primo musicista nero che ha protestato in maniera vibrante, veemente e violenta contro questi fatti? Non fu Mingus, non fu Archie Shepp, non fu nessuno né gli intellettuali bianchi di cui abbiamo parlato prima. Fu il musicista apparentemente più apolitico di tutti, cioè Louis Armstrong. Louis Armstrong rilasciò un'intervista molto violenta alle agenzie di stampa, nelle quali diceva che Phobos era un farabutto e Eisenhower non ha stomaco, è un incapace, è uno che dovrebbe risolvere questa situazione e non ne ha la forza. Tant'è vero che fu anche in conseguenza di questa intervista che Eisenhower si mosse. Quella è la copertina che ho messo della lezione di oggi, proprio per farvi vedere come il rapporto fra jazz e politica possa essere così vario e anche elusivo per certi aspetti. Se guardate attentamente a destra, c'è scritto Turns Down Paid Trip to Russia. Armstrong aveva un tour fatto per il Dipartimento di Stato per andare a suonare, siamo nel 57, quindi in piena guerra fredda, in Unione Sovietica, e Armstrong cancella il tour, in segno di protesta, rinuncia ai soldi, rinuncia a essere complice del governo americano. Ditemi voi se questo non è un gesto politico fortissimo. Tra l'altro, poche settimane dopo, Armstrong cominciò a essere seguito dall'FBI, fu aperto un fascicolo su di lui. In quelle settimane Mingus si trovava in un locale di New York e suonava dei pezzi. Uno di questi non aveva titolo e mentre suonavano guardavano le news che arrivavano da Little Rock, perché la crisi durò delle settimane, le news che arrivavano da Little Rock e... Faccio così, scusate. Lasciamo un attimo il Little Rock perché ci torniamo. Questo per dirvi quanto sia stato importante Armstrong nella presa di coscienza politica dei neri degli anni 60. Colui che veniva additato come lo zio Tom, quello che ride davanti ai bianchi, che fa il buffone, che è sempre accondiscendente. E invece abbiamo visto che già dai tempi di Black and Blue era molto attento a questo aspetto. C'è un disco che conoscono in pochi che si chiama The Real Ambassadors. Sapete perché questo disco di Dave Brubeck e Louis Armstrong, non a caso un bianco e un nero, a sinistra c'è il cantante John Hendricks? Perché Armstrong fu proclamato ambasciatore del jazz in quegli anni. Il Dipartimento di Stato americano lo vendeva, come nel viaggio in Russia per esempio, come l'ambasciatore della cultura americana nel mondo. Armstrong incise una specie di cantata che Dave Brubeck e sua moglie Iola Brubeck avevano scritto, che si chiamava The Real Ambassadors, i veri ambasciatori, bianchi e neri messi insieme, che parlano apertamente di politica, e incidono questa serie di pezzi che sono apertamente politici, apertamente ideologici. Armstrong partecipa con entusiasmo all'impresa. Ci sono vari brani, tutti molto brevi, ve ne faccio sentire uno in cui sentirete la voce di Armstrong. Mi pare che si aggiunge anche lo stesso John Hendricks più avanti. La musica è suonata dal gruppo di Armstrong con Dave Brubeck al pianoforte. Remember who you are. I testi sono della moglie di Brubeck. Remember who you are and what you represent. Always be a credit to your government. No matter what you say or what you do, the eyes of the world are watching you. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent. Questo è il trombonista Trum Young. Issues be discreet. When controversy enters, you retreat. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent. And what you represent. Jelly rolling Basie helps us to invent a weapon that no other nation has, especially the Russians can't claim jazz. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent, represent, represent, represent, represent. In particolare l'ultima strofa proprio odora di guerra fredda in una maniera impressionante, no? Ricorda chi sei e cosa rappresenti. Jelly Roll Morton e Basie, scusate un piccolo refuso, ci hanno aiutato a inventare un'arma che nessun'altra nazione possiede, specialmente i russi non possono rivendicare il jazz, come dire, perché, anche perché il jazz non è il fatto che gli Stati Uniti hanno il jazz e i russi no, è che gli Stati Uniti hanno i bianchi e i neri insieme. Questo è il messaggio, diciamo, sottinteso in questa parte finale. Torniamo ai fatti di Little Rock. Vi dicevo, Mingus suona un brano mentre, lui stesso ce lo racconta, mentre vedeva le news da Little Rock. E a un certo punto decide che quel brano senza titolo può essere un pezzo contro il governatore dell'Arkansas, contro Orval Phobos, e lo intitola Fables of Phobos. Nel 1959, due anni dopo, va in studio per registrare l'album Mingus Ahum col suo amico produttore Teo Masiro, ha preparato un testo per questo pezzo, il testo in studio gli viene censurato. Il disco è della Columbia, quindi una multinazionale, e la Columbia dice no, il pezzo con questo testo non esce. Quindi nel disco Mingus Ahum voi trovate Fables of Phobos, con questo titolo che evidentemente allude a un personaggio che tutti conoscevano, cioè il governatore Phobos, ma è un pezzo tutto sommato, come dire, inoffensivo, un po' ambiguo. Suonano un pezzo dedicato con questo titolo un po' ironico, Fables of Phobos, ma non c'è molto altro perché il testo è stato censurato. Un anno dopo, Mingus viene chiamato dal critico bianco Nat Hentoff, uno dei pochi veri amici bianchi che Mingus aveva, un altro leader della sinistra radicale che ancora oggi è vivo e attivo e fa sentire la sua voce sui giornali americani, anche se ha più di 90 anni. Nat Hentoff è ancora, come dire, una voce importante della sinistra americana, ascoltata anche, qualche volta tradotta anche in italiano. Hentoff aveva fondato una piccola etichetta che si chiamava Candid, non a caso, Candida o Candide se volete, pensando a Rousseau, comunque si chiamava Candid, e la regola della Candid era questa: gli artisti avevano carta bianca, potevano fare quello che volevano. Quindi Mingus porta in studio il suo gruppo con Ted Carson, Eric Dolphy, lui stesso al contrabbasso e Danny Richmond alla batteria. Incide un album che si chiama Mingus Presents Mingus, fanno finta di essere in un club, quindi lui parla, presenta per questo. E il brano esce con il titolo Original Phoebus Fables. E finalmente possono cantare il testo che avevano pensato per la versione Columbia. Un testo fortemente offensivo e ironico, uno sberleffo più che un'ironia, nei confronti di Phoebus. E l'ascolto è un pochettino lungo, ma vale la pena di farlo per intero, perché qui quell'elemento di grottesco che c'è nel testo si traduce anche in musica, in particolare nell'assolo di sax alto di Eric Dolphy, che ha qualcosa di oltraggioso, di espressionisticamente brutale. È come se ci fosse una deformazione appunto sarcastica della musica. Questo è Original Phoebus Fables, come fu registrato, come lo voleva Mingus, per la Candid nel 1960. Il tema è una marcetta. Thank you. Christ is supreme. Boo to black man was your Jim Crow. That's ridiculous, Danny. Oh, why are they so sick and ridiculous, Danny? Brainwash and teach you a anche un musicista apparentemente lontano dalla politica come Sonny Rollins, in quegli anni particolarmente ribollenti, sentì il bisogno di far sentire la sua voce e registrò un disco, adesso lo saltiamo l'ascolto perché è molto lungo il brano, ma merita di essere ascoltato interamente, dal titolo Freedom Suite, la suite della libertà. È un brano diviso in tre parti, una prima parte più cupa, una parte centrale riflessiva e una parte finale, diciamo, più ottimistica, registrata in trio con Oscar Pettiford e Max Roach. Notate anche, come dire, un accenno di orgoglio nero nella copertina scelta dalla Riverside, cioè Rollins è praticamente nudo, come una specie di statua che, come dire, legata all'idea di una bellezza nera, anche di una forza fisica nera in questa aspirazione alla libertà. Salto l'ascolto perché non abbiamo il tempo, ma nel disco di Sonny Rollins c'era Max Roach alla batteria, e Max Roach è il protagonista di quello che forse è il disco più importante di tutta la storia del jazz nei rapporti fra jazz e politica. Notate il titolo. We insist, insistiamo, Freedom Now Suite. Cioè il titolo è lo stesso del disco di Max Roach di un anno prima, ma insistiamo, noi vogliamo la libertà adesso. Notate l'etichetta è la Candid di Nat Hentoff, di questo radicale della sinistra americana. Dentro ci sono il poeta e percussionista africano Olan Tunji, viene reclutato il vecchio ma straordinario Coleman Hawkins e la voce di Abby Lincoln, che era una cantante di rhythm and blues che poi si era dedicata al jazz ed era la moglie di Max Roach, alla voce. Quella copertina cosa rappresenta? Questi tre neri, ma anche il barista bianco, che si rivolgono minacciosi, piuttosto minacciosi, una copertina straordinaria. Bisogna sapere una cosa, che in quei mesi era partito un boicottaggio dell'associazione, di un comitato di studenti, che era diventato un comitato federale, il cosiddetto boicottaggio dei banconi del bar. I neri non potevano sedere, andando al bar e prendere un tè, un caffè, qualcosa da bere, non si potevano sedere al bancone. I bianchi si potevano sedere al bancone. Un giorno un gruppo di studenti decide di fare un boicottaggio, cioè si mettono lì al bancone del bar e dicono adesso cacciatemi. Questa cosa comincia a essere fatta da tutti gli studenti in tutti i bar universitari, in tutte le città universitarie, ovviamente sono coordinati, non è una cosa che nasce dal nulla, niente nasce dal nulla, e è un lavoro preparato, coordinato, che ha un effetto formidabile, perché neri in massa si vanno a mettere al bancone e non si muovono da lì. Questa copertina, quindi, con un bianco che in questo caso evidentemente è, come dire, favorevole, complice, è l'immagine di questa esigenza di libertà e di appoggio al movimento di boicottaggio dei banconi da bar che c'era in quel momento. Come vi dicevo, i due protagonisti sono la coppia Abby Lincoln e Max Roach, che a un certo punto nel disco, che è tutto bellissimo e tutto importante, un disco straordinario, è uno di quei pochi casi in cui un'opera d'arte veramente riesce a condensare gli elementi politici senza diventare sterile ideologia, I due si ritrovano in un duo diviso in tre parti, preghiera, protesta e pace. È un'improvvisazione per voce che vocalizza libera e batteria. E questa pagina del 1960 rimane, se volete, un episodio minore, perché pensate che il disco fu praticamente boicottato. In particolare poi nel disco c'è un brano dedicato al Sudafrica, dove c'erano state, come sapete, delle stragi di neri in quel periodo. Max Roach diventa persona non grata in Sudafrica, non può andare a suonare in giro. Il disco viene proibito in Sudafrica, ha una scarsissima distribuzione negli Stati Uniti, in sostanza viene buttato nel dimenticatoio, e lo stesso Roach per quasi un decennio fa molta fatica a lavorare dopo aver prodotto questo disco. Eppure c'è una persona che si accorge di questo disco e di questo brano in particolare da un'altra parte del mondo, pochi anni dopo, nel 1964, in un'Italia presa dal pieno del boom, è un italiano. Ed è il regista Gianni Amico, che stava letteralmente inventando il linguaggio cinematografico della Nouvelle Vague. Lì lo vedete in una foto con a sinistra Cecil Taylor, che nel 1964 gira un corto, oggi disponibile in un bellissimo DVD, bellissimo perché ci sono anch'io negli extra, un bellissimo, finora non avevo fatto neanche una battuta, perdonatemi, ma ogni tanto... voglio dire, basta pensare alla politica italiana, ci viene subito da ridere. Quindi questo bellissimo DVD che raccoglie due documentari straordinari, un altro è sul jazz, sempre, di Gianni Amico, un grande cineasta, in realtà più che cineasta è stato un organizzatore a più livelli, anche qui a Roma ha avuto un'importanza enorme, ha fatto quel festival di musica brasiliana nei primi anni 80 con Nicolini, è un personaggio pazzesco. Che nel 64 girò una sua versione visiva del trittico preghiera, protesta e pace. Io adesso vi faccio vedere, non vi faccio sentire il brano, ma ve lo faccio sentire così come Gianni Amico lo ha visualizzato, cioè con una specie di suite di fotografie dedicate al mondo nero. Se abbassiamo la luce, grazie. Questo è il film di Amico. C'è scritto Lantucci perché poi c'è un altro brano aggiunto che non ascolteremo. Alziamo un po' il volume, grazie. Thank you. Poi comincia la seconda parte del documentario, cioè del film che si chiama Tutta l'Africa, che è un altro pezzo del disco di Max Roach. Avrete notato un dettaglio solo, prima di andare avanti, come Gianni Amico abbia un'intuizione che segue le indicazioni di Malcolm X di quegli anni, cioè non mostra solo immagini di neri americani, ma si allarga a una prospettiva internazionalista, in cui vengono mostrati i movimenti rivoluzionari dell'Africa, cioè è, come dire, davvero all'avanguardia, Amico, in un paese provinciale come l'Italia di quegli anni, nel cogliere la tensione dell'epoca ad allargare il raggio dei problemi e andare oltre gli Stati Uniti. Il 15 settembre 1963 c'è uno dei più gravi attentati terroristici fatti dal Ku Klux Klan contro persone inermi. In una chiesa di Birmingham, in Alabama, viene messa una bomba durante una messa e muoiono 4 bambine tra i 7 e i 12 anni. Questa strage, che è una appunto delle più gravi nella storia statunitense, fatta da appunto terroristi bianchi del Ku Klux Klan, scuote il paese in un momento in cui peraltro stavano succedendo molte altre violenze, soprattutto in Alabama, che era lo stato più oppressivo dal punto di vista della violenza dei bianchi sui neri, e questo attentato sollecita un intervento di quello che era il leader più autorevole della comunità nera, cioè Martin Luther King, che farà un lungo discorso radiofonico sulle 4 bambine di Birmingham. Quel discorso sarà lo spunto per una esecuzione musicale da parte di John Coltrane, quello stesso anno, che si chiama Alabama. Lo stesso Coltrane ha detto che, pur senza ricalcarlo parola per parola, il suo assolo di sax tenore è pensato come una traduzione musicale del discorso di King, che tra l'altro era un retore straordinario. Io ho preso il primo minuto del discorso di King e l'ho affiancato al brano di Coltrane. Su YouTube c'è una persona che addirittura li ha messi uno sopra l'altro, se volete provare a sentire l'effetto che fanno. Io ho preferito metterveli uno a fianco all'altro. Il discorso di King e poi Alabama di Coltrane. These children, unoffending, innocent and beautiful, were the victims of one of the most vicious and tragic crimes ever perpetrated against humanity. And yet they died nobly. They are the martyred herons of a holy crusade for freedom and human dignity. And so this afternoon, in a real sense, they have something to say to each of us in their death. They have something to say to every minister of the gospel who has remained silent behind the safe security of stained glass windows. They have something to say to every politician who has fed his constituents with the stale bread of hatred and the spoiled meat of racism. They have something to say to a federal government that has compromised with the undemocratic practices of Southern Dixiecrats and the blatant hypocrisy of right-wing Northern Republicans. They have something to say to every Negro who has passively accepted the evil system of segregation and who has stood on the sidelines in a mighty struggle for justice. Thank you. Guardate quanto sono curioso, per gli affamati dico che ci stiamo avviando verso la conclusione. Guardate quanto sono curiose le strade che legano la politica alla musica, in particolare al jazz. Negli anni 60 si fecero un sacco di concerti di beneficenza, di raccolta fondi per le associazioni che sostenevano i diritti civili, per esempio il Congress of Racial Equality, la National Association for Colored People, il Comitato per gli studenti non violenti, eccetera. Voi pensate che per raccogliere fondi gli organizzatori chiamassero i grandi musicisti di free jazz come Archie Shepp, Cecil Taylor, Ornette Coleman, che proclamavano a gran voce che il jazz combatteva contro la discriminazione razziale? Ma chi li conosceva questi? I musicisti più, come dire, espliciti, anche a livello musicale, nella protesta, erano degli outsider, erano straordinari, erano impegnati, rischiavano di persona, ma non se li filava nessuno, non li conosceva nessuno. Allora, se guardate la lista dei musicisti che partecipano gratuitamente ai concerti di raccolta fondi, trovate tutti i nomi del mainstream, bianchi e neri, bianchi come Tony Bennett o Dave Brubeck, neri. Non solo musicisti di jazz come per esempio Harry Belafonte o Miriam Makeba, che veniva dal Sudafrica e ne sapeva qualcosa. Cioè, questa lista, per esempio, come quella invece che dei musicisti che partecipavano più occasionalmente e meno di frequente, ci mostra come dobbiamo stare attenti ai cliché. Il jazzista ha sempre voluto mantenere questa faccia da apolitico, di quello che non si mischia, anche perché nella vecchia generazione c'era la consapevolezza che se ti esponevi troppo ti ammazzavano. Era questa la consapevolezza che aveva Duke Ellington, che per esempio andò alla marcia di Washington di Martin Luther King, ma non rilasciò interviste, non rilasciò dichiarazioni, ma era presente alla marcia. Erano in realtà pochi quelli che si esponevano in prima persona e si prendevano i cazzotti in faccia, come per esempio Al Hibbler, il cantante di Duke Ellington degli anni 40, che era non vedente e fu arrestato durante una marcia dei disordini a Birmingham e assaggiò i manganelli della polizia americana. Questo per dirvi quanto erano diverse e che varietà, anche notate una cosa che non viene mai detta, transgenerazionale. Ci sono Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Art Blakey, i musicisti più diversi. Il 63 fu un anno pieno di morti, di assassini. Fu ammazzato Medgar Evers, che era un attivista per i diritti civili, e il suo assassino, un terrorista bianco, è stato per 30 anni a piede libero, è stato condannato solo nel 94. E così le elezioni presidenziali del 64 furono particolarmente accese. Si confrontavano Lyndon Johnson, che poi, come sapete, avrà un ruolo fondamentale nella guerra del Vietnam e vincerà le elezioni, e l'estremista di destra, una specie di terrorista politico che si chiamava Barry Goldwater, che fu una delle candidature più minacciose per il futuro degli Stati Uniti. La cosa si cominciò a fare talmente pesante che ci furono anche dei candidati, sapete che nelle elezioni americane ci sono anche dei candidati minoritari che raccolgono lo zero virgola nelle percentuali, ma non ci deve stupire allora che si presentasse Dizzy Gillespie. La cosa fu presa come una boutade. Ma Gillespie era un vecchio sostenitore di Paul Robeson, era uno che non si perdeva un concerto di beneficenza, sosteneva tutta una serie di iniziative, di attività integrate, faceva il buffone, certo. Però si presentò non a caso nel 64 alla presidenza degli Stati Uniti, raccolse un numero irrisorio di voti, ma il gesto fu notato. E non tutti lo presero come una boutade. Naturalmente, come vi dicevo prima, i giovani musicisti, la nuova generazione, proclamava un nazionalismo che fu nero, che fu soprattutto proclamato da un grande scrittore che era intellettuale, Leroy Jones, che più tardi si è fatto chiamare Amiri Baraka, in particolare con un libro, guarda caso, del 1963, che forse molti di voi hanno a casa, che si chiamava Il popolo del blues, in cui si pongono le basi del nazionalismo nero. Cosa vuol dire? Vuol dire: se io sono nero e tu dici che io sono diverso, d'accordo, io sono diverso, allora io esalto la diversità della mia cultura. Mi pongo in opposizione a te bianco affinché si comprenda quanto sia profonda, ricca e diversa la mia cultura, quanto sia perfino più forte, più potente questa cultura. Il nazionalismo nero trovò voce in molti musicisti di jazz giovani, ma su tutti probabilmente il più importante è stato Archie Shepp, che come poeta, scrittore, intellettuale, musicista, diede voce ad una specie di, come posso dire, di equivalenza. Musica che chiamiamo free jazz, libertà stilistica, corrisponde a richiesta di libertà politica. È una equazione un po' audace. In realtà il free jazz non era tutto libero e anche le parti musicali più libere spesso avevano altre motivazioni. Se voi pensate ad Albert Tyler, per esempio, Tyler era un musicista che suonava free, ma aveva motivazioni non politiche, spirituali per questa libertà. Altri avevano motivazioni più, come dire, personali, come nel caso di Coltrane. Quindi l'equivalenza, che poi è diventata di moda, per esempio, nella sinistra europea dagli anni 70 in poi, free jazz uguale impegno politico, è in realtà basata su, come dire, su basi piuttosto fragili e si fonda soprattutto sull'idea del nazionalismo nero. Nel 1965, e questo è il penultimo ascolto che facciamo, Archie Shepp incide un disco molto bello e molto importante che si chiama Fire Music, all'interno del quale c'è un brano che inizialmente era stato pensato per Medgar Evers, che era stato ucciso nel 1963. Ma nel febbraio del 65, quando Shepp comincia a registrare il disco, viene ucciso a soli 39 anni Malcolm X. Allora il poema che Shepp aveva scritto, che era un poeta per Medgar Evers, diventa un poema per Malcolm X. E il brano, un titolo molto suggestivo, e il brano stesso è molto suggestivo, si chiama Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm. Ed è una fusione di quella cosa che abbiamo sentito prima in Martin Luther King e John Coltrane. Lì la parola era separata e di qua il sassofono evoca la parola. Ora la parola, per la prima volta in tutti gli esempi che abbiamo ascoltato, è dentro il brano. Anche se ci pensate Roche e Bill Lincoln, canta dei vocalizzi, non c'è la parola di protesta. Qui c'è. A song is not what it seems. A tomb, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered. In amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm. Thank you. C'è una componente teatrale molto forte in tutto questo. Andiamo verso la conclusione, verso l'ultimo brano, e farò poi una brevissima considerazione sui tempi attuali. Gli anni 70 sono stati anni di profonda politicizzazione del jazz, soprattutto in Europa, e uno dei, diciamo, degli alfieri di questa dimensione politica è stato il bassista Charlie Eden, che nel 1970 fondò una orchestra che si chiama appunto Liberation Music Orchestra. A costo di far rigirare Charlie Eden nella tomba, direi, peraltro purtroppo è scomparso di recente, direi che io ho sempre trovato alquanto sospetto l'impegno politico di Eden, perché uno che suona col pugno chiuso e si impegna per Cuba e poi non suona se non gli dai l'hotel a 5 stelle, non scherzo, è così, mi crea un po' di problemi. In ogni caso, nel 1970 la Liberation Music Orchestra fa questo disco molto bello che entra in una dimensione internazionale, perché gran parte delle musiche sono ispirate alla guerra civile spagnola, per la quale, tra l'altro, va ricordato, molti musicisti neri negli anni 30, tra cui Duke Ellington, Teddy Wilson, Count Basie e altri, si erano impegnati per raccogliere fondi da mandare in Spagna. Noi sentiremo l'inizio del disco, dove ci sono una breve introduzione, sono 2 minuti di musica, non di più, una breve introduzione molto solenne, e poi c'è la composizione di Hans Eisler, 1934, con testo di Bertolt Brecht, che qui non viene cantato, che si chiama Canto del Fronte Unito, che era una composizione pensata per radunare, come dire, tutte le masse proletarie nel 1934, scusate, per fermare il nazismo. Come vedete, quindi, ritorniamo a quel discorso del fronte popolare da cui eravamo partiti negli anni 30. La musica ha, come dire, un carattere ideologico molto esplicito, anche perché la musica di Eisler aveva appunto questo carattere di marcia. Ovviamente in chiave jazz, come l'ha voluta l'arrangiatrice, la mente un po' della Liberation Music Orchestra, Carla Bley. Thank you. pezzo di Eisner. Che ne è del rapporto tra jazz e politica oggi, negli ultimi 30 anni in particolare, visto che la Liberation risale agli anni 70? Beh, è sparito dal radar della scena musicale. È vero, ci sono molti musicisti che tra gli anni 70 e 80 hanno continuato a impegnarsi, per esempio Anthony Davis ha scritto una suite ma dedicata a Marcus Garvey, cioè un leader degli anni 20. La verità è che negli anni Ottanta, in particolare, abbiamo assistito ad uno spostamento del discorso politico dalla musica jazz all'hip hop. In particolare il rap e l'hip hop si sono appropriati, come dire, del discorso politico e ne hanno fatto, come sapete, il motore propulsivo soprattutto nella prima fase. Ma poi anche lì è arrivata la normalizzazione, perché la grande industria discografica, quella cosa terribile che si chiama parental control, cioè il disco può essere sentito dagli adulti ma non dagli adolescenti perché ci sono le parolacce, il politically correct, hanno messo la sordina e depotenziato il discorso politico anche nel rap e l'hip hop, che sono diventati poi, come dire, l'elemento politico è diventato quasi un elemento di colore. E come sappiamo bene noi, con gli anni Ottanta italiani e europei in generale, il discorso politico in musica si è, come è andato, annacquando fino a sparire praticamente dall'orizzonte. Questo è ancora vero oggi nel jazz, con qualche rara eccezione. Un personaggio, per esempio, che continua a riflettere in maniera molto aspra anche sulla realtà politica è il pianista Vijay Iyer, che ha dedicato diverse opere, per esempio in duo col pianista Mike Ladd il percussionista Mike Ladd a questo tipo di iniziative. Ma vorrei segnalarvi almeno, non ascoltiamo il brano perché veramente avete tutti il Hungry Blues, il blues della fame, Yon Yang, un pianista non a caso di origine cinese che suona con musicisti di origine cinese, che negli anni 90 ha dedicato un disco che si chiama The Ballad or the Bullet. Non è il suo unico disco politicizzato, cioè la ballata o il proiettile. E ha dedicato un brano a Melvin Truss. Chi è Melvin Truss? Era uno dei tanti adolescenti neri uccisi dalla polizia, in particolare nel 1985 dalla polizia di San José in California. Non è un caso quindi che parlare apertamente di musica e politica, in particolare del ruolo violento della polizia, in modo molto esplicito, siano i dischi di un pianista californiano di origine cinese che tra l'altro mescola strumenti cinesi con strumenti occidentali. Io direi che siamo giunti alla conclusione e, come vedete, il finale non è molto lieto. In realtà quello che mi premeva farvi notare appunto è quanto possa essere vario, mobile, elusivo e non schematizzabile il rapporto tra il jazz e la politica. E il fatto che chiudiamo le lezioni di jazz su questa nota quest'anno, cioè di chiave politica, a me non dispiace, spero neanche a voi. Grazie.